24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. È un tribunale talebano, è una decisione di perfetta ingiustizia e di mescolamento gravissimo di morale e diritto. Talebano, quindi forse va un po' meglio, perché Giuliano Ferrara aveva detto che eravamo come Teheran, o va un po' peggio, non lo so, ieri, come Teheran, Milano come Teheran, ora come i talebani, quindi siamo passati più in Afghanistan, rimaniamo sempre in quella zona lì, ma cari italiani, questo è per Giuliano Ferrara il punto in cui stiamo, sempre per via della sentenza Ruby. Buongiorno a tutti, sono le 6:33 minuti. Questa 24 mattino siamo con Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè sempre qui in regia. Hanno smontato tutto qua nello studio, cambiato. Sì, non c'è la contrafila, Milano è proprio un coglione. Vabbè, ma è possibile che sei un pieva così, lavori in radio e il mondo va così? Vabbè, pazienza. Vabbè, che dobbiamo fare? Sono cose che capitano. Allora, voglio subito aprire il nostro Parlamento anche oggi. Evviva! Il caffè volentieri a tutti quanti. Ci siamo. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Strozzate col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Allora, e così d'altronde, vabbè, il caffè è sempre offerto da Nicole Minetti, che dobbiamo fare? Qua siamo in ristrettezze, non è che possiamo offrire un caffè al giorno a tutti, perché sennò facciamo un po' fatica. Allora, voglio salutare Luca Dini, buongiorno, il direttore di Vanity Fair, che vive a Teheran. Hai visto dei mullah, degli ayatollah in questi giorni girando per Milano? No, però appunto ci stiamo spostando, quindi domani saremo Uzbeki con i baffoni, non lo so, li ha visto quei turbanti neri, no, non lo so. E saluto Paola Saluzzi, buongiorno. Ma buongiorno Alessandro, buongiorno direttore, io sono buongiorno. Dov'è che sei? Sono a Sorrento. Vabbè, davanti al golfo di Sorrento, c'è Vesuvio che mi sta guardando e devo dire che veramente nella vita ho visto posti peggiori. Vabbè, allora come direbbe l'ascoltatrice, strozzate col caffè di Sorrento. Che meraviglia, ragazzi, una settimana così. Sorrento è un luogo magico. Meraviglioso. Vabbè, a Sorrento non ci sono mullah, talebani, no, ayatollah, bombe atomiche. Niente del genere. Vabbè, se avete capito, si vorrebbe parlare d'altro qui in Italia, ma evidentemente sono giorni che si parla di questo, della sentenza Ruby, anche perché la questione è capire se la politica poi e come reggerà. Ieri c'è da dire che Berlusconi ha incontrato Letta, si sono visti fino a l'una di notte, tra l'altro c'era anche Gianni Letta, bella zio, si sono visti e hanno detto che per 3 mesi l'IVA dovrebbe essere rinviata, poi forse a settembre altri 3 mesi. L'Italia va un po' così, Luca Dini, rinvio dopo rinvio, così andiamo avanti di 3 mesi in 3 mesi, così un po' scapicollando, no? Cercando di non inciampare. È un po' l'immagine del nostro paese, o no? Eh beh, sì, purtroppo sì. Come hai detto tu, bella zio, mi è piaciuto molto. Bella zia, sì, c'era anche Gianni Letta, vabbè, che dobbiamo fare? Paola Saluzzi, che faremo di questa IVA? Se ve lo ricordate bene, siccome siamo dei ragazzi, quando andavamo alle scuole elementari e poi medie, poi venne introdotto il quadrimestre, ma all'inizio c'era il trimestre, c'erano le pagelle che erano trimestrali, quindi ci si sottoponeva ad un controllo, posso definirlo così, quantomeno della propria, ogni del proprio sapere, trimestrale. Sai che io la prendo sempre in maniera positiva, vediamo che in questo momento di super crisi dobbiamo andare a trimestri e andiamo a trimestri. Hai capito. L'importante è che usciamo fuori. Paola Saluzzi è sempre positiva, quindi va bene che il governo è uno Stato, guardi ogni 3 mesi, si guardi in tasca, ci sono i soldi? Sì, rinviamo l'IVA per 3 mesi, ce l'abbiamo fatta. Poi tra 3 mesi ci sono i soldi? Ma sì, dai, ce la facciamo altri 3 mesi. Ma dai, Paola, ma dobbiamo, che politica è? Il concetto è la controalternativa. la controalternativa seriamente parlando, qual è questo momento? Aumentare l'IVA subito. E questo sarebbe dannoso sotto tutti i punti di vista, anche perché si è visto che quando è stata fatta la cosa ha ucciso i consumatori, li ha aggarrotati e quindi non ha prodotto il risultato sperato. Quindi non è, hai ragione Alessandro, per carità, non è voler essere l'aspettato ottimista che poi fa anche rima con cretina ogni tanto. No. È soltanto, no, ma questo quali cretino ci sono solo io? L'ha detto l'ascoltatore, l'ascoltatrice. Ma per favore, dai, non hai l'esclusiva. No, l'esclusiva per la questo. Però insomma, in questo momento siamo veramente sul... Qual è stato l'altro giorno che un signore ha attraversato il Grand Canyon su un filo? E come no, il funambolo Wallenda. Ecco, grande. Hai visto quello? Uguale. Uguale. Ah sì, siamo un po' così. È un po' così. No, ma infatti adesso, direttore, è normale pensare che un governo o uno Stato comunque pensi tre mesi, e la formula è già stata ribattezzata così sui giornali, 3+3, no? Cioè, oggi sul Sole è così, 3+3. Non mi sembra che, diciamo, che il settore privato ragioni in modo molto diverso, non ci sono le trimestrali, mi pare insomma che la lungimiranza non sia tanto di moda in questo momento. No, effettivamente. Bisogna fare i conti con la realtà, io sono d'accordo con Paola, e l'alternativa, sono d'accordissimo, sarebbe peggiore di questa, di questo navigare, non a vista, però insomma... Quasi a vista, anche se tutti hanno le soluzioni. Per esempio, è demagogia porla, noi oggi ne parleremo poi alle 8:30, è demagogia porre questa cosa in modo non compriamo più gli F-35 e facciamo le scuole. Forse un pizzico di demagogia c'è, perché non è che uno disdice i contratti e prende i soldi e li porta da un'altra parte. Poi fare gli aerei vuol dire anche tutelare dei posti di lavoro, però è demagogia. Dini, porla così? Ma non so, onestamente non credo sia tutta demagogia, anche perché non è solo questione di facciamo gli aerei, creiamo i posti di lavoro, investire sulla scuola insomma è un pochino di più che creare posti di lavoro oggi. Io onestamente sulla cosa degli F-35 qualche dubbio ce l'ho. Hai dei dubbi. Paola Saluzzi, anch'io effettivamente devo dire, per esempio altri paesi, è vero che noi abbiamo ridotto, già dovevamo comprare 130, adesso compreremo 90, però altri paesi, mi risulta l'Olanda, la Gran Bretagna, poi pare che non sia un aereo clamorosamente, diciamo, all'avanguardia, c'è già di meglio, altri paesi hanno bloccato un po' tutto, hanno sospeso, ecco lì, di tre mesi, Paola Saluzzi, potrebbe fare, tra tre mesi decidiamo. Occhio, come dici tu giustamente, alla demagogia, perché quella purtroppo risulta poi il male, non voglio dire peggiore, ma seguendoti tutte le mattine, i famosi 60 milioni di allenatori della nazionale di calcio e poi 60 milioni di ministri dell'economia che hanno già capito cosa tutti fare, sanno oppure la soluzione, ministri di non so che cos'altro. Innegabilmente se lo stanno facendo altri paesi, noi dobbiamo quantomeno dare un'attentissima occhiata a tutti i conti, tutti. Quindi ci sono dentro gli F-35, come ci sono dentro mille altre cose, come dici bene tu, anche lì non facciamo demagogia, però è giusto dire che quel lavoro produce lavoro e quindi di conseguenza si troverebbero poi nelle peste altri. Però rivedere i conti di tutto, rivedere i numeri di tutto, perché forse 90 cose sono troppe, forse bisogna prenderne qualcuna di meno. Annullarli del tutto, no, diventa un fuori luogo, diventa troppo facile. Però in tutto questo sapete chi ha vinto? Boccia, avete presente Francesco Boccia, che è del PD, sapete cosa ha fatto su Twitter? Parlava di sta storia degli F-35, li ha scambiati per degli elicotteri, ha detto ma no, perché, ha fatto un tweet del tipo ma perché contro questi F-35, gli elicotteri salvano le persone, portano i soccorsi, aiutano la protezione civile, al che al punto si è scatenato ovviamente una bufera dire, e poi ha dato la colpa allo staff, prima ha detto è stato un errore, poi ha dato colpa allo staff, poi ha cancellato il tweet, insomma il tweet, vedi che fai bene Lucadini a star fuori da Twitter, vedi che fai bene, perché poi ha dato la colpa al portaborse, a chiunque passava, a Paola Saluzzi, colpa di Paola Saluzzi che mi ha detto che erano degli elicotteri, di la verità che ieri a Boccia gliel'hai suggerita tu questa stupidata. Vabbè, adesso devo fare questa domanda, lo so, perché ieri c'era questa manifestazione, Ferrara, eccetera. Lo so, però sentite Francesca Pascale, che come la devo presentare? La fidanzata di Berlusconi, ufficialmente, questo è. A un certo punto c'è una giornalista che fa delle domande un po' insistenti, sentite, nella folla. Si sente una puttana. Lei si sente una puttana? Cioè, io che faccio le domande? No, io posso fare quante domande voglio. Perché? Lei si sente una puttana? Sono io che si sente una puttana? Siamo tutte puttane? Lei si sente una puttana? Io non mi sento. E lui è una puttana? Io? Assolutamente no. Assolutamente no. Perché? Lei, per lei le puttane chi sono? Chi sono le puttane? Me lo dica. Me lo dica. Si vergogni, signora. Si vergogni. Vabbè, questa è Francesca Pascale. Allora, Paola Saluzzi, ti devo fare questa domanda. Così. Ti senti un po' una puttana? Devo rispondere? Assolutamente sì. Oh, va bene? Così smettiamo di dare questo appellativo, che da sempre è, diciamo così, inteso come il peggiore, a tutte quando vogliamo dare una targa di nefandezza. Va bene? Allora, perché dico, va benissimo la domanda, un po' violenta, Abbastanza, e non sto difendendo certamente abbastanza. La Pascale, un po' violenta. Allora, Josefa Idem viene definita puttana da chi? Borghezio? Vabbè, la cosa non ci stupisce? Cioè, un attimo di calma, detto alla romana proprio. Perché allora sapete che vi dico, lo siamo tutti, anche le vostre mamme, non voi, io, no, ma certo, ma la questione dire, secondo me tutte, anche le vostre mamme, anche la mamma che ti ha prodotto e tu sei lì a fare la domandina tutta quanta bella pulita. È una questione anche, secondo me, non di genere, perché Ferrara, non so, Luca Dini, nel voler porre questa cosa, ha detto, si è messo in primo piano, a dire siamo tutti puttane, anch'io sono un po' una puttana. Ma qual è il significato al di là, secondo te, Luca Dini, della solidarietà, insomma, dire allora se sono tutte puttane quelle che sono state giudicate in qualche modo nel tribunale talebano o teheraniano, come dice Ferrara, allora lo siamo tutti. Perché questa iniziativa e cosa ci scorgi, Luca? No, allora a me guarda, parlo a titolo personale, se vuoi, però insomma, a me non piace l'iniziativa, molto onestamente non è piaciuta tantissimo nemmeno la sentenza, nel senso che io ti ho ascoltato ieri mattina quando parlava di Nolfi e diceva che 7 anni li hanno dati a chiamare chi forse ha ammazzato Marta Russo. Cioè, il nostro è un paese un po' strano, obiettivamente. Cioè, io questo lo penso da tanto tempo, sono d'accordo con quello che diceva Vincino, che fine ha fatto il referendum sulla responsabilità dei giudici. Insomma, ci sono molte cose di cui discutere. Poi non mi piace questa iniziativa perché francamente non penso che tutti i comportamenti si possano abbinare. Questo sì. Ma il giudizio morale è una cosa e quello penale è un'altra. Qui c'è, insomma, sì, c'è da dire che lì, direttore, ecco, c'è questa attitudine. Non mi rifaccio alla ero lontana da tutto, anche se vogliamo, sì, da certo, chilometricamente. Però trovo, estrapolando tutto da tutto, e quindi neanche l'iniziativa di Ferrara, comincio a trovare proprio pesante il fatto che si spalmino questi appellativi così, con una facilità infinita, appellativi che poi andiamo a parlare con queste donne, andiamo a chiedere che cosa sia la loro vita, quelle donne che fanno veramente la prostituta, veramente fanno la puttana, quelle che stanno su Via Salaria che uno le vede la mattina quando va al lavoro. Cioè, prima di pesare, di schiaffare le parole addosso alle persone, andiamo un attimo a pesarle, no? E poi comunque Alessandro, è vero che Ferrara lo usa anche su di sé, però guarda caso, insomma, è una parola femminile, siamo sempre lì. Sì, cioè, sì. E poi è legata, bravo, è legata a un processo nel quale questo termine ha fatto irruzione, non certo perché per etichettare degli uomini, ecco, perché protagonista, cioè, di questo processo. Da puttana all'Ele Mora, insomma, per essere. Ho visto che l'hai citato. L'Ele Mora oggi sul Fatto Quotidiano, intervistato da Beatrice Borromeo, tra l'altro dice: "Ma va, ma Rubi, ma dai, con Berlusconi ha avuto problemi di prostata e quindi non". E poi Rubi puzzava di sudore, malconcia, uno schifo. Ecco, questo è l'Ele Mora sul Fatto Quotidiano. Vabbè, andiamo a sentire le informazioni sul traffico e rientriamo. 24 mattino. Ma chi se ne fotte di Berlusconi, del suo processo, delle puttane? Ormai è diventata una parola, non è neanche più un cognome, deve andare nel vocabolario. Berlusconi. Buongiorno Mina, certo che la sentenza su Berlusconi è una vergogna nazionale, o forse mondiale. Ma è possibile che si devono accanire così solo perché uno che può fare quello che vuole nella vita privata? Vergognatevi! Mia nonna mi diceva che per diventare ricco ci vuole un lasciato, un trovato, un rubato. Berlusconi ne ha fatti di tutti i colori, finalmente un po' di giustizia. È 20 anni che parliamo sempre della stessa persona, ma siamo stufi, ci viene il vomito. Altro che andare quel barbuto rosso di Ferrara, andare in piazza a Roma a fare che cosa? Ma che si riempia di tritolo e si faccia esplodere. Josefa, non è il paese Italia che ha bisogno di te, sei tu che hai bisogno dei soldi degli italiani, e vai, vai, torna a remare, vergogna. Ma Emilio Fedeghi difende ancora Berlusconi, ma perché non se ne va in pensione, ma perché se ne va all'ospizio, a una casa di cura? Se vergognassero tutti, ci hanno distrutto, ci hanno tolto la dignità, a noi italiani. Caro Mila, siamo nel paese dei ladroni, sai come si dice, chi ruba tanto fa carriera, chi ruba poco va in galera, ha capito? Questa è l'Italia. Saggezza popolare, siamo con Paola Saluzzi e con Luca Dini, direttore di Vanity Fair, e qui tutti vergogna, poi parliamo tutto di questo e poi tutti che parlano di Berlusconi, questa è la verità. Luca, oggi Libero apre su quello che dici tu, mette Misseri, Scattone, Spaccarotella, poi altri casi, chi 6 anni, 7 anni, 8 anni, non so se questo ti consola, praticamente hai l'apertura di Libero, hai fatto. Cioè. Non ho l'esclusiva. No, non è l'esclusiva. Il paragone con Silvio Berlusconi. Però sai che cosa c'è? Sulla vergogna c'è un'ultima cosa che voglio aggiungere, sì. Quello che a volte si dimentica, e quella sì che è una vergogna, e che è stata, che rimane. Cioè, quando il PDL ha votato per dire che Ruby era la nipote di Mubarak, che adesso dicono che puzzava, che qui, che là, insomma, veramente. Quella purtroppo torniamo di qui sopra. Ma è tutto una vicenda in cui l'ipocrisia l'ha fatta un po' da padrone, diciamolo francamente, sia politicamente sia come dichiarazioni. Sentite questo eurodeputato, ci facciamo sempre riconoscere, tale Baldassarre è un eurodeputato che si presenta praticamente solo per la diaria all'ultimo momento, una seduta dell'Europarlamento, e un giornalista olandese lo pizzica, gli fa le domande in inglese, dice: ma lei è arrivato qui solo per la diaria? E sentite come va a finire, insomma, a spintoni. Non capisco. Quite simple. You understand what I'm saying. You just don't want to answer me. E inizia un combattimento. Please do not touch my cameraman. Please do not touch my stuff. Where are we going? Ma cosa vuole? E finisce così a urla, spintoni, pugni, Saluzzi, ci faccia riconoscere in tutto il mondo. Sto giornalista olandese gli ha detto: lei è arrivato qui alle 5 minuti prima della seduta, della fine della seduta. E sono andate avanti in ascensore, spintoni, è partito anche un vaffanculo, è tipicamente italiano, no? Paola, è così, ci facciamo riconoscere. Ma noi non siamo questi, No, viva l'Italia, carità, dai, noi siamo carità, Italia, sì. tutt'altra. Ma per carità, poi non sono volati un po' i nervi. Sì, insomma, ma non sarà stato sarà neanche stato l'unico europarlamentare che è lì per la diaria all'ultimo momento. Certo. Però insomma mi faceva abbastanza sorridere. Allora, ho tempo solo per una segnalazione da Vanity Fair. Avete fatto un bellissimo servizio. Smettila, Paola Saluzzi. Un bellissimo servizio sul terremoto, sul post terremoto in Emilia. Luca, lì insomma com'è la situazione, la vita è ripresa delle persone che sono state colpite davvero al cuore? Luca, che effettivamente questi paesi devono tutti attraversare queste zone, è successo in Friuli, quando bisogna distruggere per ricostruire, quando uno deve rinunciare a rivedere tutto com'era per poter ricominciare a vivere. È un passaggio traumatico e terribile, però la cosa, diciamo, il messaggio positivo è che se uno va a vedere, non tutti, purtroppo non sono tutte così le zone terremotate, ce ne sono alcune dove si continua a vivere nei container. Certo. Ci sono, diciamo, esempi meno infelici dove la vita in qualche modo è ripresa, non è tutto uguale. No, è chiaro. No, però devo dire, è un bel reportage davvero, con le foto di tante storie di persone su questo. Vabbè, Paola, ti dico solo che c'è in copertina Hugh Jackman. Tu e Miriam Lucchetti lo conoscete benissimo. Questo è la copertina di Vanity Fair. Se Hugh Jackman ti piace, eccola lì. Va bene, vi ringrazio. Paola Saluzzi, Luca Dini, alla prossima. È tempo di Giornale Radio. Mi viene in mente Ghedini. Ma a Berlusconi non gli è venuto il dubbio che Ghedini si sia laureato al CEPU? Ma perché? Ci avete pensato, scusa? È l'unico avvocato difensore che riesce a far prendere al proprio cliente più anni di quelli chiesti dall'accusa. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci, le 7:19, cari ascoltatori, siamo qui pronti a leggere i giornali. Poi parleremo di che cosa? Beh, parleremo di questa situazione politica nella quale si capisce poco o si comincia a capire qualcosa sul fronte dell'IVA. Arriverà questo aumento oppure no? Pare di no per il momento, pare ci sia un rinvio di 3 mesi e poi forse altri 3 mesi. Comunque ne parleremo con Renato Brunetta, che è il capogruppo del Popolo della Libertà alla Camera, questo alle 8:15. Poi parleremo e approfondiremo anche quel tema legato alla polemica sugli F-35, perché alle 8:30 cercheremo di capire che cosa sta succedendo. C'è una mozione di SEL e Movimento 5 Stelle, ma anche alcuni del PD l'hanno firmata, spaccando un po' il partito su questo tema, dicendo: ma insomma, questi cacciabombardieri dobbiamo proprio comprarli in questo momento di crisi economica. IVA e F-35, questi gli ingredienti del menù. Più avanti con gli ospiti, ora leggiamo i giornali che trovate in edicola. È mercoledì 26 giugno, intanto i titoli per il Sole 24 Ore, l'apertura finanziaria sui boom di richieste per i bond italiani, e questo è il titolo sui CTZ, tassi raddoppiati, lo spread torna sopra 300. Per Repubblica invece, lo abbiamo sentito anche nel giornale radio, c'è una notizia in esclusiva. Tesoro 8 miliardi a rischio, e li vedremo subito in apertura di approfondirla questa notizia, perché è qualcosa di inquietante che, secondo Repubblica, pende come buco sul bilancio dello Stato. La Stampa, IVA e lavoro, ecco il piano. Il Corriere della Sera, e qui inizia una serie di articoli sulle tensioni dopo la sentenza Ruby. Il governo è sotto assedio. Il Messaggero, Berlusconi, avviso a Letta. L'Unità, alta tensione nel governo. Il Giornale, scatta il piano B. La strategia del PDL, la fine di Letta non è più un tabù. Il Fatto Quotidiano, Epifani non si vergogna di governare con Berlusconi. Libero invece mette questa foto di Berlusconi, ma chi è il criminale, insieme alle foto di Michele Misseri, condannato a 8 anni, Scattone a 6 anni, Spaccarotella, quello che sparò al tifoso Gabriele Sandri, 6 anni, e insomma altri casi a dire: ma come, Berlusconi 7 anni accomunato a queste persone qui. Berlusconi muove le regine, questo è il Secolo XIX, torna l'idea della figlia Marina, leader del partito, e anche il Quotidiano Nazionale apre su questo titolo: di padre in figlia, ci sono Berlusconi e Marina. Volano bassi invece, con la foto degli F-35 sul Manifesto, mentre Avvenire, fame e sprechi, ci risiamo, Europa sorda, Italia incerta. Allora, Repubblica, la prima pagina, questo titolo davvero inquietante, è una notizia che Repubblica scrive il Quotidiano, oltre al Financial Times. C'è questa cifra, 8 miliardi, Pagina 2-3, tesoro, perdite potenziali di almeno 8 miliardi dai derivati degli anni 90. Ecco, sono i derivati la causa di questo potenziale buco. Andrea Greco scrive tutti i dettagli a pagina 2. C'è una bomba, orologeria nei conti pubblici, nel rigo dei titoli derivati, una perdita potenziale di almeno 8 miliardi di euro, pari a oltre il 25% degli strumenti di copertura tassi e di cambio del debito che sono stati ristrutturati dal Ministero del Tesoro nel solo 2012. Si tratta di derivati accesi negli anni 90 anche per consentire anticipazioni di cassa che permisero al governo italiano di farsi trovare pronto all'appuntamento con la valuta unica, ma oggi ancor più nei prossimi anni quel fardello del passato presenta il conto. Tutto questo è contenuto in un rapporto che il Ministero del Tesoro ha fornito alla Corte dei Conti e che Repubblica ha potuto consultare. Una relazione di 29 pagine, le ultime 10 sulla gestione delle passività e del rischio di tasso e cambio, ottenuta di norma con coperture di derivati, e secondo un esperto funzionario del governo, la Corte li ha letti con preoccupazione e ha voluto saperne di più. Così lo scorso aprile ha inviato la Guardia di Finanza in via 20 settembre, sede del Ministero del Tesoro, con un mandato di esibizione di documenti in cerca delle confirmation letter, cioè i contratti di stipula di quei derivati. Repubblica scrive: ha chiesto al Tesoro ulteriori informazioni, ma al momento non ci sono commenti per illustrare i dati e le operazioni. Beh, certo, però questo sarebbe davvero una bomba orologeria, così la definisce Repubblica, che pende sui conti del Tesoro e quindi sui conti dello Stato derivati degli anni 90, che ora potrebbero presentarsi come fardello e creando un buco non indifferente nei conti dello Stato. Ci manca solo questa, cari italiani, ci manca solo questa. A proposito di economia, c'è invece un'altra notizia che proviene, che coinvolge il Ministero del Tesoro, che viene messa in prima pagina come commento a un articolo, un corsivo firmato dalla direzione, immagino, del giornale, che riguarda un retroscena interessante, se confermato, sulla questione delle nomine pubbliche. Sapete che nei giorni scorsi è stato fatto un decreto dal governo per stabilire le prossime nomine pubbliche, a che criteri dovranno rispondere. Uno dei criteri è che non si potrà nominare in posizioni pubbliche anche persone non solo condannate, ma anche persone che hanno delle indagini in corso, un rinvio a giudizio. Secondo questa indiscrezione del giornale, questa sarebbe una vera e proprio sgarbo che il ministro dell'economia Saccomanni ha fatto al premier Enrico Letta. Perché? Perché è un modo per porre un veto per legge, a tramite un decreto, alla possibile nomina di Gianni De Gennaro, ex capo dei servizi segreti, a Finmeccanica e ex capo anche della polizia. Eccolo qui, prima del giornale. Saccomanni, sgarbo al premier sulle nomine. Ha fatto storcere più di un naso a Palazzo Chigi la direttiva di Fabrizio Saccomanni sui requisiti per le nomine delle aziende pubbliche. Primo fra tutti è stato Enrico Letta a storcere il naso. Secondo infatti i boatos di Palazzo, il presidente del Consiglio si sarebbe impegnato personalmente per far diventare Gianni De Gennaro prossimo presidente di Finmeccanica. I paletti però messi dal ministro dell'economia renderebbero complicata l'operazione più di quanto già non sia per le misure contenute nella legge sul conflitto di interessi, una legge che proibisce a ministri e sottosegretari di assumere incarichi in aziende pubbliche per almeno 12 mesi. Tra le cause di ineleggibilità introdotte da Saccomanni ci sarebbero infatti, tra l'altro, non solo eventuali sentenze passate in giudicato, ma anche un semplice rinvio a giudizio. E allora, per i fatti del G8 di Genova, De Gennaro è stato condannato in appello a 1 anno e 4 mesi, poi cancellati con formula piena dalla Cassazione. E anche se la direttiva di Saccomanni non parla di casi del genere, alla presidenza del Consiglio vociferano che sia stata una mossa contro la nomina di De Gennaro a Finmeccanica. Infatti il giornale lo pone così: Saccomanni, dispetto al premier sulle nomine. Beh, chissà se è davvero così come la pone il giornale, però certo un'indiscrezione interessante. A proposito, prima della pubblicità, il lavoro è un qualcosa di importante, soprattutto di questi tempi. Allora guardate come racconta Repubblica cosa è successo a Chieti. Jenner Meletti, a pagina 19, 105 si presentano per conquistare un posto di lavoro nella selezione, in una selezione all'area in ambito portuale, troppo preparati per fare gli operai. Si presentano anche dei laureati, la selezione beffa li esclude. Candidati a un posto da portuale scartati per eccesso di competenza. Si presentano in 105 per sperare di conquistare un posto di lavoro come qualifica addetto al carico e scarico di merci in ambito portuale, in breve un posto da portuale non fisso, interinale. Si presentano per ottenere uno dei 20 posti in palio, si presentano anche dei laureati, in questo momento c'è la crisi pesante. E così gli addetti alla selezione forse non si meravigliano troppo, però li bocciano per troppa competenza, eccesso di competenza. Ecco, è uno dei paradossi del mondo del lavoro quando si dice: ma come, non ci sono dei laureati che non sono in grado e che non hanno voglia di cercare di cimentarsi in un posto di lavoro per il quale magari dicono: ma no, noi abbiamo studiato, siamo laureati. E questo è il caso opposto: si sono presentati pur essendo laureati per un posto di lavoro per il quale effettivamente non è necessaria la laurea e sono stati scartati per questo motivo. Succede anche questo, lo racconta Repubblica a pagina 19. Allora, noi ci fermiamo per la pubblicità del meteo. Chi vincerà oggi il premio La Carta Costa, l'articolo più inutile scovato oggi sui giornali? Chi lo sa, intanto ripartiremo dalle fibrillazioni di governo, anche se il presidente Napolitano ha detto siamo campioni del mondo in fibrillazioni di governo, e dalla vicenda IVA. Allora, come finirà? Lunedì ci sarà questo aumento? No, pare di no. Per 3 mesi stiamo a posto, forse per 6 mesi. E poi così, di rinvio in rinvio. Chi vivrà, vedrà. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, alle 7:35 minuti, siamo qui sempre a leggere i giornali, a continuare nella lettura. Vi ricordo che poi alle 8:15 avremo Renato Brunetta, alle 8:30 parleremo della questione F-35, tutti temi che sono molto caldi sui giornali. Beh, ieri Enrico Letta, il Premier, e Silvio Berlusconi si sono visti in un incontro che è durato fino all'1 di notte, e quindi i giornali hanno qualcosa magari non è riuscito ad andare in stampa, ma indiscrezioni sono già uscite, e Berlusconi si è presentato da Enrico Letta con Gianni Letta, come ho detto prima, bella zio. E hanno parlato ovviamente dei temi più caldi. Letta e Berlusconi siglano la tregua, questo è il titolo di pagina 8 del Sole 24 Ore. Dopo il caso Ruby, lungo vertice nella notte, intesa su lavoro, Europa e rinvio di 3 mesi per l'IVA. Ecco, questo è il punto. A cosa si andrà incontro sulla questione, una delle questioni più calde, l'IVA, che dovrebbe lunedì aumentare di un punto percentuale? Dovrebbe esserci il rinvio di 3 mesi, sancito oggi dal Consiglio dei Ministri. Berlusconi da Letta, incontro a cena, garanzie, una richiesta, più coraggio. Questo avrebbe chiesto, secondo Marco Galluzzo del Corriere della Sera, Berlusconi a Enrico Letta, soprattutto rilanciando sulla questione del coraggio in Europa. Rinnovata la garanzia di un doppio binario, le vicende giudiziarie da un lato e la vita dell'esecutivo dall'altro, non farò mai nulla per farti cadere, così avrebbe detto Berlusconi secondo il Corriere della Sera a Enrico Letta, e questo ha spronato l'inquilino di Palazzo Chigi ad avere più coraggio in Europa. Poi Berlusconi, essere meno guardingo con le riforme dell'IVA e dell'IMU, ma non ha nascosto l'imprevedibile che la sua vicenda processuale porta con sé. Infatti, al di là dell'ottimismo di facciata delle dichiarazioni, molti dei titoli di giornale oggi di prima pagina, il Corriere della Sera per esempio titola così: il governo è sotto assedio. C'è anche un'intervista alla ministra Nunzia Di Girolamo, intervistata a pagina 3 del Corriere della Sera da Dino Martirano, dice: siamo allibiti dal PD, una vera avarizia di parole dopo la condanna a Berlusconi, ma l'esecutivo non può cadere per questa sentenza. Insomma, c'è questo doppio binario a capire quello che succederà. Ma prima delle fibrillazioni politiche a cui ha fatto riferimento Napolitano, il presidente, c'è la questione proprio IVA. Allora, i dettagli. Cosa succederà? pare che si andrà verso il rinvio di 3 mesi fino a settembre e poi forse anche un ulteriore rinvio di 3 mesi fino a dicembre, di rinvio e rinvio. Tutti i dettagli sono scritti da Marco Mobili e Marco Rogari sul Sole 24 Ore, pagina 10. IVA, opzione IRPEF per le risorse, questo è un altro punto interessante. Intanto si pensa a una sorta di 3 più 3, un dossier IVA che arriva questa mattina sul tavolo del Consiglio dei Ministri in versione ancora aperta per il nodo risorse. L'idea partita da chiudere è così: il PDL è apparso tutt'altro che favorevole all'ipotesi di solo un mini rinvio di 3 mesi, si vuole almeno il rinvio fino alla fine dell'anno. E però per questo servono 2 miliardi di ulteriori risorse, una dote difficile da recuperare. Allora una delle ipotesi è che sia stato individuato l'aumento dell'acconto IRPEF di fine anno che grava soprattutto sui lavoratori autonomi. Insomma, sta di fatto che siamo sempre lì. Per trovare delle risorse bisogna gravare sui cittadini per impedire che una tassa aumenti. Per impedire che una tassa aumenti si grava in qualche modo ai cittadini. È una delle ipotesi, per finanziare lo stop, l'aumento dell'acconto IRPEF per gli autonomi. Cari autonomi, siete contenti? Forse dovrete finanziare con un aumento dell'acconto IRPEF di fine anno quello che è il blocco dell'aumento dell'IVA. Siamo sempre lì, cioè pensare di tagliare delle spese evidentemente è un qualcosa che tutti si cervellano, ma sono lì, non trovano la soluzione. Ci sono 400 miliardi di spesa pubblica a parte le pensioni, che dobbiamo fare? Non si trova dove sforbiciare. Anche per La Stampa, Alessandro Barbera, pagina 3, arriva il rinvio per 3 mesi dell'IVA. E tra l'altro scrive in questo retroscena Barbera: se c'è una questione che rappresenta plasticamente le difficoltà all'interno del governo delle larghe intese, questa è proprio la diatriba sull'aumento o meno dell'IVA. E scrive La Stampa: se fosse dipeso da Letta e da Saccomanni, il ministro dell'economia, lunedì l'aumento sarebbe scattato senza patemi. Solo però la pervicacia del PDL ha portato a dire almeno 3 mesi e, se possibile, anche fino a fine dicembre, 6 mesi, bisogna bloccare questo aumento. Perché, scrive La Stampa, perché in realtà tutte le risorse che potevano venire dall'aumento dell'IVA devono essere concentrate in questo momento nella riduzione del costo del lavoro, che è la vera palla al piede della ripresa italiana. Questo secondo quello che avevano in mente Letta e Saccomanni. Poi in realtà ci sarà appunto questo slittamento dell'aumento dell'IVA. Vedremo di quanto. Oggi è la giornata decisiva. Ecco, l'ho detto anch'io, però davvero dovrebbe esserlo in Consiglio dei Ministri. E su tutto questo grava la questione politica, di cui parleremo alle 8.30, politica in senso stretto, sia perché c'è una mozione che pende a firma SEL e Movimento 5 Stelle, ma appoggiata anche da alcuni del PD, sia perché è una questione economica della possibile rinvio degli acquisti dei famosi F-35, questi cacciabombardieri che sono diventati un simbolo, siamo tutti diventati, pare, esperti di questi aerei. F-35, duello tra ministri nel governo, PD e PDL divisi sulle spese per i caccia, così titola per esempio pagina 12 di Repubblica. Il ministro Del Rio ha detto bisognerebbe rinviare, il ministro della difesa Mauro ha detto non mi risulta ci sia stata una crisi di governo e quindi il programma va avanti per l'acquisto. Anche per La Stampa, F-35, maggioranza nel caos, ci si divide tra i cosiddetti guerrafondai e quelli no. E poi c'è la straordinaria gaffe di Boccia del PD, che su Twitter ieri ha scritto: ma non si tratta di fare guerre, con gli elicotteri si spengono incendi e si salvano le vite. Ma come gli elicotteri, gli F-35? Poi Boccia è corsa ai ripari dando la colpa allo staff che avrebbe scritto il tweet, poi cancellando il tweet. Oggi fa un'intervista alla Stampa in cui dice: gli investimenti militari hanno ritorni in termini occupazionali, tecnologici, e alla domanda ma questo tweet, scusi, gli elicotteri, ma un errore di battitura, ho dettato il tweet al telefono e chi l'ha scritto si è confuso. Tanto che oggi il buongiorno di Massimo Grammi Camellini. È straordinario, a caccia di elicotteri, basta volare basso, libriamoci nello spazio là dove ronzano le pale dell'onorevole Boccia, consigliere fidato del primo ministro in carica, che dialogando su Twitter con una collega di partito ha proprio scritto così: non si tratta di far la guerra con gli elicotteri, si spengono incendi. La rivelazione di Boccia ha gettato il Pentagono nel panico. Prima del suo tweet i generali erano riusciti a tenere nascosta la vera natura dei costosissimi aviogetti, ma ora, grazie alla talpa democratica, sappiamo come stanno le cose. Gli F-35 non sono cacciabombardieri, sono elicotteri a forma di cacciabombardieri. Spengono incendi senza neanche gettare l'acqua, solo con lo spostamento d'aria. Trasportano i malati talmente in fretta da stenderli in sala operatoria prima che il chirurgo abbia fatto in tempo a mettersi i guanti e la mascherina. Con la modestia dei grandi, Boccia ha cercato di minimizzare il suo gesto, affermando di aver tirato in ballo gli elicotteri solo a mo' di esempio. Poi, in un eccesso di generosità, addirittura ha attribuito il merito della rivelazione al suo stagista. Troppo tardi, ricercato come Snowden dalle polizie di mezzo mondo, ora gli toccherà scappare in qualche paese che non contempli l'estradizione per il reato di figuraccia. Qualcuno ieri sera giurava di averlo visto salire su un F-35 che aveva le pale piegate in due dalle risate. Vabbè, c'è anche spazio per un po' di ironia su un tema molto serio. In tutto questo c'è la questione della tenuta politica. Tutti i giornali titolano: dopo la sentenza Ruby c'è un governo in fibrillazione. Secondo il retroscena più interessante, a firma Francesco Verderami sul Corriere della Sera, Berlusconi dopo la sentenza ai suoi ha detto: basta, me ne vado via, me ne vado in Sudafrica. Non chiedetemi perché è proprio il Sudafrica, ma insomma questa è la frase attribuita a Berlusconi: me ne vado via in Sudafrica. E qui si interpreta, scrive Verderami, il messaggio successivo di Alfano, che ha detto: il presidente deve tenere duro e andare avanti. Si fanno fantasie anche su una trattativa, il fantomatico salvacondotto per Berlusconi. Chi lo avrebbe votato in Parlamento? Il PD, un partito che si è suicidato alle elezioni per il Quirinale, affossando le candidature di Marini e Prodi. In una drammatica riunione dopo la sentenza, secondo Verderami, Fitto pose una domanda anche a Berlusconi di recente durante una riunione di partito: presidente, c'è un accordo con Napolitano di cui non siamo a conoscenza? Nessun accordo, fu la risposta messa agli atti. Ma insomma, come sintetizza Verderami, all'interno del PDL è il caos, si vocifererebbe tra falchi, colombe, eccetera. Per esempio, sentite qui la pazienza ha un limite, Silvio tentato di rompere su Libero, e chi punta a Marina Berlusconi. Santanché, ora è il turno di Marina. Biancofiore al Fatto Quotidiano: Alfano è troppo seduto, vogliamo Marina. La Stampa: Marina non vuole scendere in campo, l'obiettivo suo è salvare i conti del gruppo Mondadori. Fibrillazioni. Repubblica, Carmelo Lo Papa: Marina è già a scuola di leadership dinastica, un'altra Berlusconi è la nostra Renzi, dicono molti. Sta di fatto che le fibrillazioni ci sono, il dopo sentenza Ruby ancora si fa sentire, con una oggi straordinaria intervista da cui riparto tra un attimo sul Fatto Quotidiano, a Lele Mora, un'intervista fatta da Beatrice Borromeo. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E allora, il dopo sentenza Ruby tiene ancora banco. Libero mette in prima pagina Berlusconi affiancato a Michele Misseri, 8 anni, Giovanni Scattone, omicidio Marta Russo, 6 anni, Luigi Spacca Rotella, 6 anni, uccise il tifoso laziale Sandri, Gabriele Sandri, Pasquale Palma, 5 anni per rapine e sequestri di persone, Mohamed Fardù, 6 anni per violenza sessuale e lesioni. E si chiede: ma chi è il criminale? Cioè, Berlusconi accostato con i suoi 7 anni a questi criminali? E così anche il giornale: assassini, pedofili, truffatori, 6 anni, 4 anni, 6 mesi, 8 anni, 5 anni, 7 anni, ma chi è? Sono più sono meno pericolosi del cavaliere? E questo tiene banco come dibattito. E a questo proposito, cari ascoltatori, ognuno ha le sue debolezze. Io, giornalisticamente parlando, ho la mia debolezza, che sono le interviste di Beatrice Borromeo, sempre straordinarie le trovo sul Fatto Quotidiano. Beatrice Borromeo, a pagina 2, intervista Lele Mora. Silvio più buono di Wojtyła. e poi Ruby puzzava. Questo è il titolo. Che faceva per il cavaliere? Ma eravamo grandi amici, anche se non ci sentiamo più, gli avvocati lo sconsigliano. Ora parlano di costrizione, ma non esiste. Il presidente è un signore vero che tratta tutti con accoglienza. La sua grande bontà e la sua inequiparabile generosità che l'ha fregato. Guardi, non sa quanti stalker si presentavano e mi tormentavano per arrivare a lui. Alcune si presentavano con la pelliccia e nulla sotto, completamente nude, ma al presidente non piacevano, troppo sfacciate. Lo allietava invece la spontaneità. Guardi che lui non ha nemmeno sfiorato le persone che sono andate a trovarle. Ruby l'ha fatto per pena, le ha dato i soldi per aprire il centro di bellezza. Sono certo che non abbiano mai fatto sesso, anche perché dopo il suo intervento la prostata non tutto funziona al meglio. Poi non la poteva soffrire, puzzava di sudore, era malconcia, farla passare per una troia è assurdo. E poi è stata lei a negare di esserci andata a letto, perché non le credete? Ma ci sono alcune intercettazioni. Ma io c'ero, posso parlare. Il presidente mi telefonava alle 11 di sera, mi chiedeva: che fai? Sono a casa con 20 persone, rispondevo. E lui: portale tutte qui. Si stava insieme, si ballava, ma non c'erano porcherie. Insomma, questo Lele Mora. Ruby puzzava di sudore, era malconcia. Intervistato da Beatrice Borromeo. A proposito di Berlusconi, la tenuta di governo, Napolitano che dice basta fibrillazioni, siamo campioni del mondo di fibrillazioni, una notizia che insomma farà sobbalzare qualcuno, altri no. Fosca Binker, alias Franco Bechis, su Libero. Sapete quanto paga di IMU Berlusconi? Allora, l'anno scorso ha pagato 347.835 euro, nel 2012, e Libero scrive che stangata l'IMU del CAV, 235.000 euro più di prima. L'IMU è stata una vera mazzata anche per le tasche di Berlusconi. La tassa di Monti è costata al cavaliere un rincaro di 235.000 euro nel 2012, che pesa tutto sulle tre residenze più celebri: Villa Certosa in Sardegna, San Marino ad Arcole, San Martino per la verità, Villa San Martino ad Arcole, Villa Belvedere a Macherio. Cifra esatta che salta fuori dal bilancio 2012 di Idra Immobiliare, la società controllata da Berlusconi per gestire il suo patrimonio immobiliare, una tassa sulle case che nel 2011 ammontava a 112.000 euro e dopo la cura Monti è schizzata a 347.835 euro. Quest'altro che da mani sul volante, 347.000 e rotti euro, l'IMU di Berlusconi, accidenti. Vabbè. Movimento 5 Stelle, per chiudere con la politica, c'è un deputato di cui si vociferava ieri sarà il prossimo a uscire. Viste le dichiarazioni che fa al Secolo XIX, intervistato da Ilario Lombardo, non credo che avrà vita lunga nel Movimento 5 Stelle. Forse non avrà vita lunga, punto. E la frase è finita così, una bella ghigliottina. Tacconi, il deputato Tacconi, restituire la diaria? 5.000 euro a Zurigo, dove vivo con la famiglia, non bastano. 5.000 euro al mese. La vita in Svizzera costa di più, però sono 5.000 euro lordi. Con la mia famiglia a Zurigo io così non ci campo. Ma mi scusi, chiede Lombardo, non lo sapeva prima, quando ha deciso di candidarsi, ma il codice di comportamento che ho firmato mi pare scritto in italiano e non dice che devo restituire. Le regole d'ingaggio sono cambiate in corso. Se mi chiama il capogruppo io lo cerco, lui non risponde, se mi chiamano ho deciso rispondo, ma solo se mi chiamano loro. Perché non ha posto il problema a Grillo? Se mi chiama glielo dico. Cioè, avete capito, vuole essere chiamato lui a questo punto. E l'informazione, Grillo che dice via i giornalisti parlamentari, forse vogliono l'informazione ridotta a due veline, una al giorno, una la mattina e una la sera. Insomma, parla un po' come loro ormai. Sarà il prossimo a uscire? Chi lo sa. C'è tanto da raccontare ancora, dell'inchiesta del calcio, se volete, tantissimo, la questione, la bufera fiscale sul calcio, acquisiti i documenti in 41 club, ma voglio andare al premio La Carta Costa, se non abbatto il microfono, La Carta Costa per l'articolo più inutile scovato oggi. Siamo su Repubblica. Elisa Gerardis è un cattivo esempio, la premier australiana sotto accusa perché fa la maglia. La maglia, l'uncinetto, una pagina intera, Julia Gillard. Già la seconda volta che entra nel nostro premio la carta costa, la povera premier australiana. Julia Gillard si è fatta fotografare mentre realizza ai ferri un canguro di lana per il bambino di William e Kate che nascerà. Un canguro di lana. E subito il suo hobby si è trasformato in un caso politico. Ci sono i critici nel paese che scrivono: è un modello sbagliato per le più giovani. E Repubblica dedica mezza pagina a questa. I sostenitori dicono: che male c'è, nessuno attacca il capo dell'opposizione che va a fare surf. Perché lì il capo dell'opposizione va a fare surf. E la premier fa l'uncinetto. Cari colleghi di Repubblica, c'è però un problema in questo. La carta costa. E quindi questo articolo oggi vince il premio dell'articolo più inutile del giorno. Va bene. 24 mattino. Sono le 8 e 16 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora, l'IVA è ancora in primo piano, l'IVA è uno dei temi che viene trattato sui giornali. Da qui vogliamo partire e voglio partire dal salutare il capogruppo del Popolo della Libertà alla Camera, Renato Brunetta, che è con noi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Senta, ieri si è parlato di questa intesa, almeno le agenzie parlano di questa intesa raggiunta di massima tra Berlusconi e il premier Enrico Letta ieri sera, e cioè si dovrebbe andare a un rinvio cosiddetto 3+3, cioè rinvio fino a settembre e poi con la possibilità di rinviare l'aumento dell'IVA fino a dicembre. Così a lei risulta intanto e così le andrebbe bene? A me non risulta, nel senso che non ne so nulla. L'incontro di ieri penso sia finito attorno a mezzanotte, io non ho parlato con nessuno dei protagonisti, quindi non posso inventarmi o dire nulla. Le andrebbe bene comunque se fosse questo tipo di intesa, cioè un rinvio di 3+3 sicuro a settembre, che lei ieri l'ha definito una sorta di presa in giro, e invece con la possibilità che però sia dilatato anche fino a dicembre. Ma vede, quello che conta è evitare l'incertezza. Da troppo tempo il governo sta mandando segnali di incertezza. L'incertezza in economia è un costo. Pensare di rinviare a settembre per poi discuterne un'altra volta, per poi fare un altro dibattito, IVA sì, IVA no, per altri 3 mesi, mi sembra stucchevole e assolutamente costoso dal punto di vista dell'incertezza. Si tratta di trovare una copertura di 2 miliardi di euro per arrivare a fine anno e a metà ottobre, all'interno della legge di stabilità, riformare strutturalmente l'IVA, l'imposta, nella sua interezza, e far partire la nuova IVA dal 1° di gennaio 2014, in maniera tale da risolvere i problemi di copertura. Questa è la via maestra. Altre strade, ripeto, il 3+3, non servono a nulla, producono probabilmente più costi che benefici. A questo proposito, lei ha citato questa cifra, 2 miliardi, sa che una delle ipotesi sulla quale già ieri lei si è pronunciato negativamente è quella di aumentare l'acconto IRPEF per gli autonomi e recuperare lì alcuni dei soldi che servono a scongiurare l'aumento dell'IVA. Effettivamente suona così: per scongiurare l'aumento di una tassa graviamo comunque su dei contribuenti. È in questo senso che lei ha criticato questa ipotesi? Sì, ho detto che era una presa in giro. E conferma, insomma, è una presa in giro, però è allo studio, cioè ed è allo studio nel governo del quale anche il suo partito fa parte. Questo è il segnale politico. Io non ho avuto alcun rapporto col ministro Saccomanni. Però il suo partito, ripeto, fa parte in maniera forte, in maniera molto solida in questo esecutivo. Queste stesse cose, come presidente del gruppo dei parlamentari del partito del Popolo della Libertà, le ho dette tanto a Berlusconi quanto al capo delegazione Angelino Alfano. Secondo lei, allora, passando su un piano politico, su questi temi la tenuta di governo è a rischio? Ma vede, quando un governo trova soluzioni così deboli, tanto sull'IVA, molto probabilmente troverà soluzioni altrettanto deboli sul problema della lotta alla disoccupazione giovanile. Figuriamoci quali soluzioni potrà trovare sull'IMU. Quando un governo trova soluzioni così deboli, per questa stessa ragione il governo rischia di cadere. proprio perché non governa, proprio perché dà risposte insufficienti. Quindi quando oggi molti giornali titolano, non so se li ha già visti, il governo è sotto assedio, il governo rischia, lei per questi stessi motivi economici dice effettivamente questo rischio è effettivo, è concreto, è reale. Vede, non c'è nessun assediante se non la realtà. La realtà chiede risposte forti. Se a questa domanda da parte dell'economia italiana, dei giovani, delle famiglie, delle imprese, il governo dà risposte deboli, per questa stessa ragione il governo si mette da solo a rischio. Sa che una delle ipotesi, noi la approfondiremo poi alle 8.30, è vero che sono diventati una sorta di simbolo, ma si dice per esempio risparmiamo sugli F-35, cioè ognuno pare avere una ricetta, perché pare incredibile che con una spesa pubblica così ampia come in Italia nessuno riesca a trovare per esempio questi benedetti 2 miliardi. Potrebbe essere una soluzione quella di sospendere l'acquisto di questi cacciabombardieri? Ma qui bisogna essere molto seri. Questo impegno sugli F-35 è del 1998, governo D'Alema, che è stato confermato da tutti i governi che da allora si sono succeduti, nel 2001 governo Berlusconi, 2006 governo Prodi, 2008 governo Berlusconi, 2011 seguenti governo Monti. Nessuno sta spendendo questi soldi. Ma questo bisogna spiegarlo con correttezza, questo è un programma che dura 30 anni, cui l'Italia partecipa e dal punto di vista economico e finanziario e attraverso l'impegno a comprare questi velivoli, ma anche e soprattutto a produrre questi velivoli dal punto di vista industriale. Quindi c'è un, come si fa in questi casi, un programma di lungo periodo legato ad accordi internazionali di presenza italiana nei quadranti di difesa all'interno della NATO, all'interno dell'Unione Europea, che non prevede l'esborso di decine di miliardi subito, ma prevede la partecipazione economico e finanziaria industriale a un programma pluriennale. Questi soldi non ci sono, è semplicemente la partecipazione pro quota dell'Italia a questo programma, per cui se si dicesse bene non partecipiamo più a questo programma, non è che rinvengono 5, 10, 20 sì. miliardi di euro, non rinviene assolutamente niente. Quello che rinverrebbe, questo sì, è che si fermerebbe la cooperazione industriale italiana, che riguarda soprattutto una regione, il Piemonte, alla produzione di questi sistemi. Sì, poi lei dice si violerebbero anche dei patti che sono stati sottoscritti. Beh, questo vuol dire poi uscire di fatto dalla nostra partecipazione per quanto riguarda questo tipo d'arma dalla NATO, dall'Unione Europea e così via. È una di una stupida superficialità questo tipo di approccio, che meriterebbe forse anche da parte della stampa, dei giornali, della radio e della televisione un approfondimento un po' più serio, perché detta così meglio gli F-35 delle scuole o le scuole, nessuno avrebbe ovviamente dubbi, nessuno sano di mente avrebbe dubbi, ma le cose non stanno così. Senta Brunetta, lei ha criticato quello che stanno mettendo in piedi al governo per quel che riguarda l'IVA eccetera, ma lei che soluzione avrebbe, cioè dove si trovano questi soldi per taglierebbe che cosa per esempio? Ma vede, io non sono il governo, io sono semplicemente presidente di un gruppo parlamentare. Beh, ma di un gruppo? I governi esistono, mi scusi, i governi esistono per governare, non a caso si chiamano esecutivi. I governi hanno a disposizione, i ministri hanno a disposizione i ministeri, è compito dei ministri fare delle proposte, approvarle, portarle in Parlamento. Non è che si debba invertire l'onere della proposta. È stato voluto un ministro tecnico per il grandissimo e potentissimo Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il presidente Letta ha assunto degli impegni in sede di fiducia. Su quegli impegni assunti in sede di fiducia ha ottenuto la fiducia. Adesso sta al presidente Letta, ai suoi ministri, al suo governo, nella sua interezza, a fare delle proposte. Sì, però lei mi pare, come dire, abbastanza strano dire, beh, ditelo voi come fate. No, vabbè, ma questa era una domanda, siccome lei giustamente dice sono professore, ho competenze in economia, magari qualche soluzione poteva, non dico suggerirla, ma averla per i nostri ascoltatori, ecco. Ma non sarebbe corretto per una semplice ragione, che è il governo che deve fare le proposte alla sua maggioranza. Mm. Dopodiché, se la sua maggioranza è d'accordo, bene, se non è d'accordo, se ne va il governo. Ma lei non sta parlando un po' come se fosse quasi parte dell'opposizione, quando fa parte, è vero, non è nell'esecutivo, ma fa parte del Popolo della Libertà. Io voglio semplicemente che il governo attui il suo programma. Io sto vigilando che il governo, siamo in un governo di coalizione, e io sto chiedendo a viva voce che il governo attui correttamente il suo programma, e fare l'opposizione questo. No, questo no, però insomma chiaramente molti dicono, ma come, è dello stesso Popolo della Libertà che poi siederà in Consiglio dei Ministri. Se Letta si impegna sull'IVA e dal governo io non vedo risposte chiare e serie sull'IVA, potrò dire che non vedo risposte chiare. Certamente, è liberissimo di dirlo. Senta, ha già letto oggi Repubblica, la prima pagina in particolare, perché su Repubblica si parla di una vera e propria bomba orologeria che graverebbe sul bilancio italiano, cioè derivati stipulati nel 90 che comporterebbero un rischio di buco nel tesoro di 8 miliardi di euro, e su questo la Corte dei Conti avrebbe già acquisito dati. Financial Times e Repubblica mettono questo titolone in prima pagina. A lei risulta e le pare verosimile ed è un rischio concreto di questo tipo? Beh, l'unica cosa che mi risulta è l'assoluta opacità della nostra finanza pubblica come gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi, data l'opacità di quel ministero, può essere verosimile anche l'allarme lanciato da Repubblica. Noi abbiamo a che fare con un ministero mostruoso che raggruppa 6-7 dei vecchi ministeri, entrate, uscite, mezzogiorno, bilancio, partecipazioni statali, un ministero veramente mostruoso, talmente mostruoso ma anche talmente opaco. Nessuno sa esattamente l'ammontare del debito, nessuno sa come si costruisce il famoso tendenziale sulla base del quale si costruiscono poi i conti pubblici. E recentemente, con la legge di stabilità che porta anche il mio nome e quello del Pierpaolo Baretta, noi avevamo istituito il Fiscal Council, vale a dire questa autorità di origine parlamentare finalizzata proprio a fare chiarezza e trasparenza. Bene, di questo Fiscal Council, che dovrebbe nascere quest'anno, non c'è traccia, perché dovrebbe essere finalmente l'elemento di chiarezza, trasparenza sui conti dello Stato. Quindi io di questo buco non ne so ovviamente nulla, però conoscendo il grado di opacità di questo ministero, non la stupirebbe. Penso che la cosa sia assolutamente plausibile. Plausibile, anche se risale diciamo agli anni 90, ecco, però dice già da allora questa opacità. C'è una grande tradizione di opacità. Allora, per concludere le faccio questa domanda strettamente politica sul partito, perché sono sempre più gli articoli che dicono forse sarà Marina Berlusconi a succedere in qualche modo a Silvio Berlusconi a capo del PDL. Lei come la vedrebbe questa eventualità? Ma vede, a me non piacciono le dinastie, né quelle monarchiche né quelle democratiche. Quindi insomma, è una risposta che fa capire che non gradirebbe questo tipo di passaggio. Non mi piacciono le dinastie. Se la dottoressa Marina Berlusconi vuole far politica e ne ha tutte le capacità, per quanto ne so, la faccia pure. Ma non penso che sia plausibile un'investitura a carattere ereditario. Ecco, faccia politica, dimostri le sue capacità in politica, le ha già dimostrate nell'ambito manageriale, e se vale acquisirà ruoli, funzioni, leadership proprie delle sue capacità. Ripeto, io amo il merito. E in democrazia il merito è tutto. Trasparenza, merito, leadership. Queste sono le sequenze che io seguo. Essere leader di un paese o leader di una nazione semplicemente perché si è nati da, come dire, penso sia un modo di selezionare la classe dirigente un po' obsoleto. La ringrazio intanto, buona giornata, stiamo a vedere come grazie va a finire la vicenda IVA, soprattutto se oggi si sono svolte. Con Renato Brunetta, capogruppo del Popolo della Libertà alla Camera. Allora, legata all'IVA c'è questa questione degli F-35, c'è una mozione che pende di SEL, Movimento 5 Stelle, ma firmata anche alcuni del Partito Democratico, quindi si è parlato di partito spaccato su questo tema, per chiedere il rinvio dell'acquisto dei cosiddetti cacciabombardieri, di questi cacciabombardieri. 24 mattino. Eccoci ancora alle 8.35 dopo aver chiacchierato con Renato Brunetta. Allora, forse questi F-35 sono diventati più che altro un simbolo, no? Questi cacciabombardieri che l'Italia, secondo impegni presi anni fa, si è impegnata appunto a comprare 91 cacciabombardieri a Lockheed Martin F-35 per sostituire 256 aerei di combattimento considerati obsoleti ormai in Italia. Si tratta di un'operazione del costo di 13 miliardi, i primi aerei dovrebbero essere consegnati nel 2016, gli altri 31 nel 2018, ma insomma saranno diventati un simbolo, ma rischiano di diventare anche un caso di spaccatura politica, perché c'è una mozione che verrà oggi votata alla Camera, mozione portata avanti da SEL, Movimento 5 Stelle, a cui hanno aderito anche un drappello di deputati democratici del PD, e che rischia di creare problemi, fibrillazioni, per usare una parola cara anche al capo dello Stato Napolitano. Tra l'altro c'è su questo anche uno scontro all'interno del governo stesso, perché il ministro Delrio ha detto andrebbe rivista questo acquisto di F-35, il ministro Mauro, il ministro della difesa, ha detto ironicamente: evidentemente c'è stata una crisi di governo e non me ne sono accorto. Ne vogliamo discutere parlando e cercando di capire se siano un simbolo, anche quando si dice meno F-35 più asili nido, che sembra più uno slogan più che altro, con Giorgio Airaudo, che è onorevole di SEL. Buongiorno e benvenuto Airaudo, eccoci. Buongiorno a voi. Come saluto il senatore del PD Nicola Latorre, buongiorno, benvenuto e ben ritrovato Latorre. Buongiorno. Allora, Airaudo è un simbolo, è uno slogan anche facilmente magari identificabile per voi di SEL, perché è un simbolo militare questo degli F-35? Ma no, guardi, è una scelta sbagliata, fatta senza averci pensato molto molti anni fa, e che adesso precipita in una fase economica e sociale del nostro paese che vede, come si dice, la necessità di fare delle scelte. Come si pongono ai cittadini delle scelte quando gli si dice rinunciate alla rivalutazione delle pensioni minime, come ha fatto il precedente governo Monti, può, come si dice, il governo, può il Parlamento dire ai cittadini italiani rinunciamo a una cosa che non possiamo più permetterci, peraltro uno strumento di difesa che francamente più che di difesa è di attacco, essendo un cacciabombardiere che può portare armi nucleari. E come si dice, peraltro, un aereo molto discusso, molto messo in discussione da molti di quelli che pur avevano o deciso di partecipare al progetto in qualche modo o deciso di acquistarli. Sono moltissimi governi che hanno sospeso, sì, ridotto, rinviato. Beh, l'Italia già ha ridotto, perché dovevano esserne acquistati di più. E poi... Sì, ha ridotto, ma francamente la situazione in cui versa il nostro paese, come vediamo, insomma, non passa ora che non ci venga spiegato che non ci sono soldi, che non si trovano risorse, che non le troveremo per i prossimi anni, non passa ora che non vengano fatti fare sacrifici o non vengano richiesti contributi ai cittadini. Francamente, se c'è qualcosa che possiamo risparmiare sul lungo periodo, facciamolo. In più, mi consente di dire anche che non è neanche un oggetto che ha delle ricadute in termini di innovazioni di prodotto, di processo particolari, perché noi non partecipiamo allo sviluppo di quel prodotto, sì, non abbiamo una ricaduta occupazionale diretta. Beh, perché... come no? Beh, come no, non ce l'abbiamo, perché guardi, io sono torinese e conosco abbastanza bene l'aeronautica militare, e ad oggi i lavoratori trasferiti a Cameri, perché hanno già montato le ali di 3 velivoli, dal 18 luglio li assemblano i primi 3 velivoli, per capirci, sotto luglio questo, e gli unici lavoratori assunti sono 50. E ci sono 150 trasferiti pagati in trasferta dallo stabilimento di Torino a quello di Cameri per fare la startup. E le voci sono che a Cameri, a Torino, ci sarà lavoro e ci si va tutto. Quindi no, dice, una se c'è una ricaduta occupazionale di questi termini, cioè minima, che però c'è. Molto piccola, mi creda, c'è qualcosa di più, però non sta nell'indotto. Nell'indotto. E c'è il cellulare che fa un po' le bizze, magari lo recuperiamo. Però facciamo così, Airaudio, perché c'è il cellulare che adesso ci ha un pochino abbandonato, abbiamo perso qualche parola, magari la richiamiamo per migliorare il collegamento, o se sta in una zona magari le chiederei di fermarsi un attimo. Senatore La Torre, prima Renato Brunetta tra l'altro ci ha ricordato, è una decisione assunta dal governo D'Alema, si affonda dunque negli anni 90. Lei che con D'Alema insomma ha buoni rapporti, lei che lo conosce bene, che ne pensa del fatto che alcuni del PD abbiano firmato questa mozione? Cos'è? Fibrillazione, possiamo definirla così, o un vero e proprio attacco politico alla solidità della maggioranza? Ma guardi, le ragioni per cui alcuni parlamentari del PD hanno firmato questa mozione bisognerebbe chiederlo ad alcuni parlamentari del PD, non sono io in grado di spiegarle, perché certamente nel Partito Democratico su questa materia ci sono delle opinioni diverse che noi ci auguriamo possano trovare anche questa mattina, mentre noi stiamo parlando, si sta svolgendo un'assemblea dei parlamentari del Partito Democratico, una intesa attorno ad un punto di vista. Guardi, lei opportunamente introducendo questa discussione diceva una cosa molto importante, noi siamo di fronte ad una scelta inevitabile, quella cioè di rinnovare la flotta aerea del nostro paese, nel senso che noi abbiamo i nostri aerei che ora non entriamo nelle tecnicalità, obsoleti. La MX, il Tornado, gli aerei che utilizza la Marina eccetera, che stanno andando tutti progressivamente in disuso. Alcuni anni fa, molti anni fa, l'allora ministro della difesa Andreatta impostò un programma di rinnovamento della flotta aerea partecipando con altri paesi, in particolare con gli Stati Uniti, ma con altri paesi, alla costruzione di un programma che si opponeva come obiettivo quello di costruire un aereo per rinnovare la nostra flotta aerea. E però, ovviamente, dice Airaudio, i tempi sono cambiati. Sì, i tempi sono cambiati, ma Airaudio sa molto bene, al netto della legittima battaglia politica che lui fa, che i programmi di costruzione, di rinnovo delle flotte aeree non si fanno nell'arco di un anno, di due anni, sono programmi che vengono calibrati su 20 anni, su 30 anni, stiamo parlando di queste dimensioni. Allora, questo programma è andato avanti, naturalmente sono cambiate molte cose nel corso di questi anni, è cambiato non soltanto lo scenario finanziario dei vari paesi, ma sta cambiando anche un asse, nel senso che noi sempre di più dobbiamo orientare le nostre scelte politiche, industriali, strategiche in una dimensione europea. Sì. Ma tutto questo va fatto con la responsabilità che un paese deve avere nel di momento rispettare in cui partecipa certo. ad una però vicenda, mi scusi, senatore La Torre, per esempio il 2 giugno abbiamo rinunciato alle frecce tricolori e si è detto la sobrietà eccetera, cioè il segnale di molti cittadini, è vero che sarà qualunquista dire togliamo gli F-35 e facciamo 50 asili nido, sì, questo è uno slogan, se però mi fa completare, sì. Come io proprio nella mia natura, io in questo senso so di spesso di remare anche controcorrente, ma proprio partecipare alle campagne qualunquiste è una cosa che questo sì. E quindi diciamo non partecipo a queste campagne qualunquiste, cerco di riflettere, di ragionare. Prima cosa, non c'è dubbio che quando noi saremo chiamati a definire i contratti di acquisto e le quantità delle aerei da acquistare, e tra l'altro avremo verificato che questo prodotto è compiutamente un prodotto come quello che avevamo immaginato, io credo che sia giusto valutare una acquisti che siano commisurati alle nostre disponibilità finanziarie. Ho per capito. Cui questa però bisogna, storia, bisogna dirlo adesso, sennò questi... non è come dice lei, mi perdoni. E questa storia 16 miliardi destinati ora agli acquisti degli F-35 stiamo nella Siria è una cosa del tutto priva di fondamento. Noi abbiamo impegni di spesa che in questo bilancio 2013, questo 2013, sono di alcune centinaia di milioni per completare l'insediamento di Gameri e per cominciare a prendere e a definire alcuni elementi del prototipo di aereo. Nel prossimo bilancio abbiamo stanziato e sono stanziati nel 2014 circa 600 milioni. Nel 2015 noi dovremo decidere quanti aerei definitivamente prendiamo, quanti, come distribuiamo gli acquisti. Ed è lì, dice che si potrebbe decidere. Facciamo così però, siccome devo dare l'informazione... Ma noi spalmeremo. Sì, ma anche. è chiaro. Cioè, lei dice non è vero ed è qualunquista e demagogico dire che in questo momento, oggi, al 20, che giorno è? 26 giugno, se noi volessimo ci sono 16 miliardi a disposizione che invece che per gli F-35 li possiamo utilizzare per fare altre cose. Ripartiamo dopo le informazioni sul traffico dall'onorevole Airaudo che replicherà. Su questo punto vorrei capire anche onorevole Raudo come andrà a finire oggi, perché c'è questo appunto drappello di democratici che forse rientreranno, ecco, la Torre ci ha fatto capire che c'è una riunione in corso, forse la spaccatura all'interno del PD su questo rientrerà tra un attimo. Eccoci qua, allora onorevole Airaudo, è demagogia e quella che viene a fare porre la questione meno F-35 più scuole, e poi ci spieghi un attimo oggi come è calendarizzata questa mozione, cosa chiedete e se confidate davvero che quelli che l'hanno appoggiata nel PD mantengano il loro impegno, Airaudo. Ma guardi, io penso che sia pragmatismo, non demagogia. È evidente che stiamo parlando di un progetto spalmato su più anni, ma qua ci viene spiegato ogni giorno davvero che non si trova nei 10 milioni di euro, e quindi recuperare anche le poche centinaia, si fa per dire, di milioni di euro all'anno per i prossimi anni con certezza, o risparmiare quei milioni di euro, a me non sembra una cosa così peregrina, visto tutto quello che abbiamo chiesto ai nostri concittadini in termini di sacrificio e aumento delle tassazioni. Secondo, mi si consente di dire, si potevano e si possono ancora fare altre scelte rispetto agli F-35, perché è vero che sono scelte di medio-lungo periodo, ma se parliamo di un sistema di difesa, di sistema d'arma europei all'interno di un sistema di difesa europeo, c'era il progetto Eurofighter che avrebbe avuto ricadute tecnologiche, di processo, di prodotte occupazionali assai più significative dell'F-35 che poteva essere sviluppato. E quelle sono state fatte delle scelte, lei dice magari scelte sbagliate, però anche ma lì... Sono state fatte delle scelte dentro un contesto sia geopolitico e soprattutto macroeconomico profondamente cambiato. Però dal segnale politico, cioè di rompere un questo tipo di scelte, non vorrebbe dire, come dice qualcuno, uscire dalla NATO, cioè non rispettare... Ma non è che lei le pare che la Gran Bretagna voglia uscire dalla NATO avendo rinviato la decisione al 2015. Adesso su, non diciamo cose qui sì demagogiche. In quanto alla sua seconda parte della domanda, io ovviamente mi aspetto che la nostra mozione venga votata. Non me lo aspetto solo dai, come si dice, deputati del Partito Democratico che l'hanno firmata. Peraltro voglio dire, per coerenza l'hanno firmata, perché guardi che tra gennaio e febbraio scorso, non un secolo fa, c'erano dichiarazioni di Berlusconi, di Matteo Renzi e di Pierluigi Bersani che dicevano che questi F-35 potevano essere messi in discussione. Questo è vero. Pierluigi, cioè, Bersani. Questo è vero. Non solo Bersani, vero. Matteo Renzi ha dichiarato. No, ma io rimango a Bersani perché spendiamo 12 miliardi. No, ma Berlusconi scusi, ha detto che non l'ha scelto lui. Certo, vabbè, questo è vero dal punto di vista tecnico. Mi fermo a Bersani perché è colui che avrebbe dovuto essere probabilmente il presidente del Consiglio. Poi sappiamo com'è andata, non lo è. Però era il capo di quella coalizione che oggi si stupisce, e questa è la questione della Torre, che alcuni firmino, ma insomma l'abbiamo sentito effettivamente la Torre e Bersani dire che questo programma va tutto rivisto in campagna elettorale, oppure ce lo siamo sognati la Torre? No, guardi, anch'io ho ascoltato Bersani che ha detto una cosa molto sensata, e cioè che potrebbe essere necessario, anzi lui sosteneva si renderà necessario, ridurre il numero degli F-35 da acquistare, perché la consistenza prevista non ce la possiamo permettere, e in previsione, io dico, non solo il problema di un eventuale ridimensionamento del programma risponde ad un'esigenza finanziaria, molto probabilmente può rispondere anche ad una esigenza che è funzionale alla riorganizzazione del nostro sistema di difesa, che nel complesso deve ridurre le sue spese militari, che deve rinnovare la flotta aerea, ma che deve intervenire anche per adeguare tutta la marina laddove ci sono anche problemi di rinnovamento dei mezzi. Allora, il punto è, primo, non c'è dubbio, noi abbiamo partecipato a questa consorzio Eurofighter, preciso che l'Eurofighter non è un aereo di combattimento in volo, se è un intercettore che serve ad abbattere altri aerei in volo, diciamo, non è un aereo di pace, e comunque noi abbiamo partecipato a quel consorzio. Se dovessimo condividere con i nostri paesi e con gli altri paesi europei un'implementazione di questo progetto, noi dovremmo mettere in conto di spendere molti altri soldi. Sì, sì, quindi il problema delle risorse per la difesa è un problema che resta. Il problema è quanto e come si spendono questi soldi. E poi lei dice non si risolve così, con colpi che continua insomma a dire, possono apparire e sono per alcuni versi demagogici. Fatemi sentire un ascoltatore, Giovanni da Varese, c'è spazio forse per un ascoltatore. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, volevo sapere se è vero che il Canada ha rinunciato agli F-35 perché hanno detto che sono troppo costosi per loro. Sì. E mi sembra che siano messi meglio che l'Italia economicamente. Sulla seconda domanda non saprei dire, adesso non ho i dati economici del Canada. È vero che hanno rinunciato a questo dicendo non sono all'altezza delle aspettative e sono molto onerosi. Il Canada lo ha fatto a Iraudo, è su questo che voi dite possiamo farlo anche noi? Beh sì, non solo, non l'ha fatto solo il Canada peraltro ha varato una commissione inchiesta che ha dimostrato che quegli aerei costano 3 volte quello che era stato preventivato, o costeranno 3 volte, peraltro il costo ad oggi è incerto. Io però faccio una proposta al senatore La Torre: si faccia una commissione d'inchiesta, si ragioni di quale sistema di difesa integrato e come noi partecipiamo ha bisogno l'Europa, e fino ad allora si sospenda qualunque intervento sugli F-35. No, però hai raggiunto la commissione, anche lei una commissione, non proponga anche lei una commissione, la prego. Guardi, è una cosa abbastanza normale fare delle commissioni. Sì, in Italia, figurarsi. Quando si hanno, no, ma non in Italia, quando si hanno dubbi e si mobilizza risorse dei cittadini italiani, dei contribuenti, in tale quantità e con tale incertezza su efficacia e spesa, è meglio fermarsi e riflettere su cosa stiamo facendo piuttosto che andare avanti e magari far finta di riflettere. Senta, Airaudo, ho un minuto, devo chiudere, ma mi tolga questa curiosità perché l'ho letta nei giorni scorsi, ma è vero che l'ha chiamata Berlusconi, che non c'entra niente con il tema, ma è vera questa notizia? Sì, una telefonata privata del tutto irrilevante dal punto di vista giornalistico. Beh, voleva dire quello che sta dicendo, guardi, voleva dire quello che sta dicendo a tutti. Ma perché Berlusconi chiama? Ma perché Berlusconi chiama Airaudo? Scusi, visto che tanto è uscita sui giornali, ci dica. Perché, banalmente, perché nella riffa delle trasmissioni televisive era toccata a me una discussione in contemporanea alla Biancofiore, che diceva che bisognava andare alla Corte dei diritti dell'uomo, cosa che io trovo assurda e che non potrebbe comunque fare la Biancofiore. Per capire, lei ha contestato, era in un dibattito con la Biancofiore, Berlusconi o ha visto la puntata oppure, e allora l'ha chiamata e gli ha detto: guardi Airaudo, che io sono una vittima, ha cercato di... No? Così è successo. E ha detto le cose che dice adesso, cioè non è che come si dice, quindi adesso io francamente non so neanche come questa notizia sia arrivata, perché io l'ho considerata una telefonata privata, per me sorprendente, un po' eccentrica, ma assolutamente cortese e legittima. E lei che gli ha detto a Berlusconi? Sì, sì, va bene, lei è una vittima. No, ma adesso non scherziamo, gli ho detto che lui è un cittadino molto... con molti mezzi e più potenti di molti altri, ma che deve essere trattato come tutti gli altri, ma come tutti gli altri si deve difendere nel processo e non dai processi. No, però è interessante, capisce, è un po' una chicca Berlusconi che alza il telefono, chiama il sindacalista, guardi, e deputato. Penso che lui lo faccia. Io penso che lui ne faccia tante di telefonate tante di questo così, tipo. Sì. Da questo punto di vista penso che sia un, come si dice, un, che abbia la sindrome del grande seduttore, se vorrei la mia opinione. Beh, penso di poter sedurre tutti. La sedotta? La sedotta no. Insomma, come si dice, io sono passato dalle fauci di Marchionne e sono vivo. Ecco, quindi figurarsi per lo scorso. Va bene, la ringrazio, mi devo fermare qui. Grazie a Giorgio Airaudo, al senatore La Torre del PD e Airaudo di Sel. E ci troviamo domattina alle 6.30.